verso in alto di chi il mondo sfida. E tiene i piedi un uomo con un sì. Sì. Gli occhi, la paura del domani, come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. Poi mi dava i calci dentro il letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Tutti, dai! Sente.